Oi, oi, oi, oi, oi. Allora, come vi dicevo, piano piano si sta mettendo insieme il palco per questa banda. Yeah. Thank you. Ancora dagli 87.9 di Onda Rossa, dall'Oa Acrobax, ancora questa bellissima musica, come avete sentito. Jet Step Punk, quelli che state ascoltando, una grandissima banda di ottoni. E mi raccomando, il momento è quello di venire qui, perché tra pochino smetterà lo streaming e ci sarà un grande concerto. Vi lascio la musica. No, we don't hear you, I don't hear you. If you're ready, say yeah! Yeah! Say yeah! Yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Acrobox! Acrobox! Refactory! Refactory! Yeah! Yeah! What? Say what? Ooh-wee. What? Chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica, chica. Say what? What? Check this out. Welcome to the refactory brass band. What? Ati na siwa tini muno dari regularo iko kutaura kundo merka mdara karu chamba kau kama babu samura mera kotiro kati papa na tini chini wake kapa na pira kau kamuhari kai sa de mari kai simbi wale pari. Ati na siwa tini muno dari regularo iko kutaura kundo merka mdara karu chamba kau kama babu samura mera kotiro. Brass Band. Eccoli, stanno qua. Allora, io mi metto la cuffia, stiamo per chiudere lo streaming che abbiamo cominciato alle 7, quindi diciamo abbiamo fatto siamo tutta tutti la stanchi, certo. Sì, no, ma più che stanchi, divertente, più che certo. Altro è anche per fomentare intanto una 6 giorni, perché tu, come sai, visto che sei venuto a suonare, è una lunga 6 giorni che finisce domani. Allora, non so, intanto parlaci insomma, del tuo gruppo. Spero gruppo... che ti sia piaciuto. Questo è un gruppo nato 3 anni fa al Pigneto, siamo una banda di strada, in realtà poi facciamo tante cose, facciamo i matrimoni, facciamo i funerali, i battesimi, le feste di strada, le feste nei comuni, tutto facciamo. No, poi quando la musica si sa apprezzare non è questione di triste o allegra, è questione di come la ti accompagna nella vita. È emozione ovunque. A proposito, vorrei invitarvi la settimana prossima alla Sbandata Romana. Voi sapete benissimo che ci sono 3 giorni con tutte le bande che vengono da Boston, Parigi, Monaco, Graz, Bologna, Milano, Roma, ce ne sono tantissime, vi aspettiamo all'Alessandrino, Quarticciolo e Centocelle. Un modo per riapproparsi di strade che vengono molto chiuse, territori fuori dalle nostre case che vengono molto chiusi. Quindi mi muovo in bicicletta e la strada è mia, come tua, come della musica, come di tutti noi. Grazie. No, grazie a voi. Non so se poi tra i tuoi amici musici c'è qualcun altro che vuole così raccontarci anche del vostro gruppo in particolare. A prendere una birretta, penso. Ok, allora io direi che lo streaming da Onda Rossa finisce qui, visto che è stata, diciamo, abbiamo preso, cominciato questo streaming nel primo pomeriggio. Ok, intanto loro appunto ci dicono che sui social network sono tranquillamente trovabili. Io quello che vi dico è che invece, ecco, una voce. Un'altra voce di questa banda. Allora, come sei arrivato tu a questa banda? Come partecipi a questo progetto? Come li hai scoperti? Io sono un ragazzo dello Zimbabwe, Sudafrica. Però io suono pianoforte, suonato con l'orchestra del Pigneto. Così ho conosciuto il direttore della Refectory, Nando, che mi ha invitato di fare una canzone con loro, Americano, che io faccio rap, musica reggae, musica contemporanea, che mi piace il loro sound. Quindi mischiare, fare insieme dalla musica, no? Da lì parte tutto il resto. Sì, trasculturalismo. Ok, grazie mille allora. Allora direi che le sue parole sono le più adatte per chiudere questa diretta che abbiamo mandato dal 19 di oggi dal Lo Acrobats, questo bellissimo festival di musica indipendente che è andato avanti per tutta la settimana, si conclude domani, chiaramente dalla rete potete trovare nel dettaglio il programma della serata. Quello che io vi dico è che adesso vi toccherà qualche minuto di buio prima che venga ristallata la musica dagli studi di Onda Rossa, però ecco, diciamo che insomma anche questa è fatta e tra breve insomma ripartirà il compagno automatico ad accompagnarvi per la notte e da domani si ricomincia invece con il sabato di Onda Rossa. E allora anche qua dal Cinodromo, dall'Acrobats, dal Festival di Musica Indipendente, chiaramente dovete venire qui perché adesso continua una bellissima nottata insomma insieme a Meg e tanti altri gruppi. Allora io vi saluto, vi do la buonanotte e tra breve insomma vi assicuro dopo il grande silenzio invece un po' di compagnia.